24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 19 minuti e 9 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, questa è la terza parte di 24 Mattino e buongiorno Maria Latella, eccoci buongiorno, qua. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno ai nostri ascoltatori che, come abbiamo sentito anche dalla radio, beh, insomma, ci seguono con sono sempre affetto, di più ed è bello più. Questo, grazie, grazie a tutti voi che sì. ci seguite gli ottimi, dall'alba al tramonto, anzi gli a notte ottimi, fonda. Gli ottimi risultati di Radio 24, un nuovo record storico, bene, bene, bene, ascoltatori, ascoltatrici che ci possono raggiungere come sempre al 349-238-6666 per gli sms, i messaggi WhatsApp, anche audio, all'800-24-0024 se vogliono intervenire in diretta e poi se gradiscono possono anche vederci in diretta su Facebook. E vedo che Simone il vostro commento tuo e di Paolo Mieli di poco fa sulla voce che circolava su una possibile presidenza del PD che sicuramente andrà una donna e questa già è una cosa positiva, non sarebbe la prima volta perché ha già avuto un presidente donna il Partito Democratico, è stata Rosy Bindi, presidente dell'Assemblea. E insomma, comunque la voce di cui avete parlato, la possibilità che possa essere una scrittrice, Chiara Gamberale, già suscita commenti tra i nostri ascoltatori e qualcuno fa notare, dice, beh, il fatto che sia figlia di Vito Gamberale, che è stato un gran commis d'état, un grandissimo manager, eccetera, dicono naturalmente è solo una microscopica coincidenza, si fa subito un po' di commento preventivo dei nostri ascoltatori che sono molto attenti. Vabbè, insomma io tendo a considerare questa cosa quasi una buttata, l'ipotesi di questa presidenza del PD a Chiara Gamberale, della quale scrive oggi Maria Teresa Meli, però l'importante è che sia una donna, Simone. Poi vediamo. Allora, l'importante è che sia una persona di qualità. Che sia una donna, ma è dico scontato che sia una persona di qualità, Simone. Perché per carità, no. Dico come principio, no? come scelte per i vertici, guarda, prima si va sulla qualità, insomma. È poi già così complicato all'interno dei partiti che le donne si facciano largo, figurati, se dovesse farcela una donna sarà di qualità. Senz'altro. Beh, Giorgia Meloni ce l'ha fatta bene, mi pare. A proposito di donne in politica, c'è una foto che hanno un po' tutti i quotidiani, che è anche un messaggio, se vogliamo, politico. Io guardo la foto che c'è a pagina 6 di Repubblica, ma ce l'hanno anche gli altri quotidiani. Che cosa colpisce? Colpisce che a protestare con gli avvocati penalisti per la prescrizione siano Maria Stella Gelmini e anche Maria Elena Boschi. E poi, sotto questa foto, maliziosamente, Repubblica mette un'intervista a Brunetta che la dice papale, al governo con Renzi se vota con noi sulla giustizia. Dunque, nel centrodestra non hanno ancora perso la speranza di dare una spallata al governo Conte e sperano che i parlamentari di Italia Viva a un certo punto facciano mancare il consenso al governo giallorosso, che peraltro è stato voluto da Renzi, e passino col centrodestra. Ora, Brunetta la butta proprio lì in questa intervista a Tommaso Ciriaco. Però mi sembra che non sia proprio aria, perché aria, tra l'uovo oggi e la gallina domani anche i parlamentari di Italia Viva diranno qui duriamo fino a 3 anni, figurati, tra l'altro lo sappiamo perfettamente che adesso arriva il referendum sul taglio dei parlamentari, il referendum confermativo della riforma costituzionale, quindi cosa succede? Nel momento nel quale gli elettori confermeranno, perché il taglio è ampiamente prevedibile, sì, alle prossime elezioni si dimezzano i posti in Parlamento e quindi la tendenza a tenersi stretto il posto ci sarà un po' da tutte le parti, non solamente nella maggioranza, diciamocelo. Posso fare una previsione? Io di solito, figurati, con Paolo Mieli ho più di una consonanza, poi è stato il mio direttore per tanti anni, ma io questa turbolenza nel governo sul lungo periodo, proprio per le ragioni che elencavi anche tu, non la vedo. Adesso per forza, perché siamo di nuovo nella cosa terrificante delle nuove elezioni regionali, quindi un po' di turbolenza ci sarà. Ma poi Diciamo che tra un po' si comincerà a parlare poi del semestre bianco nel quale le Camere non potranno essere sciolte. Insomma, io vedo una turbolenza relativa. Diciamo che da qui all'estate, esaurita la tornata delle regionali, cari ascoltatori, parleremo forse d'altro. Sì, sì, beh, comunque già ne parliamo oggi, perché tra un attimo andiamo al tema ovviamente del coronavirus. Beh, ci fa notare solo un ascoltatore, lo faccio notare anche a te, Maria. Sì, va bene, la presidenza di una donna, però il presidente del Partito Democratico, ma quanto conta? Chi conta è il segretario. E allora, il vero tema è quello, quando una donna sarà segretaria del Partito Democratico. Speriamo in tutti i partiti, ma si vive anche di simboli, di simbologie, quindi ben venga che il Partito Democratico abbia comunque deciso, chiunque sarà la presidente, corre anche il nome di Roberta Pinotti, che è stata spesso ospite anche di questa trasmissione. Beh, chiunque sia, io sono contenta se sarà una donna. Allora, veniamo al tema del quale un po' si discute in queste ore, se ne parla per tanti motivi, un po' perché c'è un po' di panico in larga parte ingiustificato, e un po' naturalmente perché è un tema che riguarda un po' tutti. Panico ingiustificato. Beh, vogliamo sentire il messaggio che ci ha mandato un ascoltatore poco fa? Via. Gotthard Ramstätte Autogrill, a nord del Gottardo, Svizzera. Ore 12:35. Arrivano 4 autobus di turisti cinesi in arrivo dall'Italia verso la Germania, che tra l'altro è il paese che movimenta più turismo cinese in assoluto. Tutti i turisti occidentali o i clienti occidentali presenti si spostano sui lati della grande sala ristorazione, lasciando spazio ai tavoli interni. Le cameriere evitano in ogni modo il contatto con vassoi e stoviglieria. Incredibile, la psicosi c'è tutta, signori. La psicosi c'è tutta per questo coronavirus, che al momento tra l'altro uccide meno dell'influenza, dai dati che abbiamo. Certo, e quindi, ma poi ricordiamo le polemiche che seguirono alla altra grandissima epidemia proveniente dalla Cina, quella della SARS. Epidemia fortunatamente risolta, poi ci furono grandi polemiche sul fatto che forse c'era stato un allarme eccessivo con conseguente eccessivo consumo di vaccini. In questo caso il vaccino ancora non c'è, ma sono sicura che spunterà, figuriamoci, quanto prima. Giuliano Noci è docente al Politecnico di Milano, prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico, che ha questo polo territoriale ormai da tempo, e ovviamente Noci è in costante contatto con la Cina. Noci, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi radioascoltatori. Maria, prego. Buongiorno, professor Noci. Allora, conosciamo il grande flusso, grande, in termini numerici non è così spaventoso, ma insomma ce ne sono tanti, no? Di studenti del vostro Politecnico, ma anche della LUIS di Roma, di altri importanti atenei, che trascorrono un periodo di studio a Pechino o in altre città cinesi. Com'è la situazione degli studenti italiani? Poi parleremo anche di business, gli uomini di affari sono molto di più, però intanto penso alle famiglie che hanno avuto magari i loro studenti, i loro figli fino a Natale in Cina. Ce ne sono ancora? Fotografiamo intanto quello che è il terreno che lei conosce meglio, quello dei rapporti tra studenti italiani e università cinesi. Guardi, noi in questo momento abbiamo 66 studenti che sono presenti in Cina da almeno 6 mesi e che in realtà trascorreranno un anno. Ne abbiamo circa 150 che complessivamente ogni anno si muovono in Cina. Qual è la situazione? Per il momento ci sono più preoccupate le famiglie degli studenti. Un aneddoto è che alcuni studenti nostri, siccome è il periodo degli esami, perché poi dovrebbe ripartire il secondo semestre, preferivano andare in vacanza in Thailandia e nelle Filippine in questi giorni che tornare in Italia. A dire che non c'è una preoccupazione forte da parte degli studenti, anche perché percepiscono che in questo momento la popolazione è totalmente allineata, cioè non esce nessuno dalle case e, come dire, in modo molto rigoroso e confuciano, in nome del bene della patria, tutti gli interlocutori si attestano a quelle che sono le linee guida che vengono date da Pechino, dal governo locale. Certo che la situazione di giorno in giorno evolve. Stamattina sentivo Xi'an, città di 10 milioni di abitanti, famosa per i soldati di terracotta. Fino a ieri tutti i mezzi circolavano, questa mattina hanno chiuso 118 linee di trasporto cittadine e i casi sono solo 11, in verità, 11 su 10 milioni di abitanti. Alla riprova del fatto che c'è una grandissima attenzione per evitare polemiche, non dobbiamo fare allarmismi, la situazione in questo momento è ancora sotto controllo. Nel frattempo, British Airways ha sospeso i voli da e per la Cina, la Toyota ha appena annunciato che interrompe la produzione in Cina, l'ultimo bilancio ci racconta di 132 vittime e di circa 6.000 casi accertati, sono proprio notizie degli ultimi minuti che stanno arrivando adesso tramite agenzie. Noci, per quanto riguarda le sensazioni, perché c'è anche un interscambio, ci sono gli studenti cinesi che vengono in Italia e vengono al Politecnico, le sensazioni come sono rispetto a questi ragazzi? Le sensazioni, in realtà molti nostri ragazzi, noi abbiamo più di 1.000 studenti cinesi, è la popolazione di studenti stranieri più rilevante. Molti di questi non sono tornati a casa perché hanno fatto, stanno facendo esami, e quelli che non stanno facendo esami sono in tour in Europa. Diciamo che se c'è una preoccupazione da parte nostra, da parte mia, è che quella psicosi che il radioascoltatore evidenziava sull'autogrill del Gottardo comincia a emergere anche da noi, nel senso che, sapete, con la diffusione di queste notizie su un tema così rilevante come quello della salute, spero che non inneschi alla ripresa, cioè la settimana prossima in cui si riintensificheranno le attività, una psicosi da parte degli italiani e degli occidentali che abbiamo. Allora, lei spera, però, sì, però vedo che già sul mondo del lusso, per esempio, c'è una dichiarazione di Bernard Arnault, patron del colosso LVMH, che dice: noi ci stiamo attrezzando. Però se i consumi cinesi poi calassero, LVMH perderebbe tra l'1 e il 5%. C'è un fronte di preoccupazione di questo tipo, ovviamente, Maria, che però io riserverei per dopo. Ci prendiamo una pausa, resterà con noi Giuliano Noci del Politecnico, ci raggiungerà Pierpaolo Sileri, il vice ministro alla salute, che tra l'altro è un medico, cioè di mestiere faceva il medico e adesso è il vice ministro alla salute, quindi potremmo dare sia chiarimenti medici sia chiarimenti su come si sta muovendo l'Italia, sia ovviamente chiarimenti sul business, sul mondo del business da Noci e le preoccupazioni sotto questo aspetto. Una pausa. Mattino. Buongiorno a Pierpaolo Sileri, vice ministro della salute. Buongiorno Sileri, eccoci. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, le posso chiedere prima di tutto di chiarire ai nostri ascoltatori, a qualche nostro ascoltatore che ci scrive, che ha perplessità e dubbi sulla dimensione di questa pandemia di coronavirus, che al momento è molto concentrata in Cina, naturalmente. E noi in realtà non sappiamo nemmeno quale sia effettivamente il tasso di mortalità, però da quel che vediamo e da quel che sappiamo è piuttosto basso e concentrato in gente che non riceve le cure adeguate da una parte o che pure ha precedenti malattie. Ho capito bene? È esattamente così. Ovviamente il numero di casi è destinato a crescere, sono prevalentemente localizzati in Cina, dove è partita l'epidemia. Il numero di decessi effetti è estremamente basso, anche perché, non so, per farle un esempio, l'influenza stagionale nella terza settimana del 2020, quindi l'influenza standard, quella che viviamo ogni anno, ha fatto 7 decessi nella terza settimana del 2020, quindi tanto per dirle quant'è la rilevanza del problema. Sicuramente in è Italia, un problema in Italia nulla a che fare col coronavirus, parlo della semplice influenza stagionale, che quando colpisce soggetti a rischio purtroppo porta a morte. Quindi qui parliamo di circa 80 casi su 2741 casi confermati a ieri, sappiamo che i casi sono di più, quindi aspettiamo l'aggiornamento odierno dell'OMS, quindi sappiamo che superiamo i 4.000, che il numero di morti supera i 100, si tratta di una mortalità bassa, immagino prevalentemente soggetti più a rischio, soggetti che non hanno fatto una diagnosi tempestiva e che sono arrivati più tardivamente in ospedale. Le misure che sono state prese dalla Cina, devo dire, sono state eccezionali, diversamente da ciò che è accaduto con la SARS diversi anni fa, che aveva una mortalità molto più alta. Vice Ministro, vorrei capire da lei una cosa che forse appunto voi sapete e noi no. Sarebbe utile per la pubblica opinione fare anche chiarezza su come queste pandemie nascono, perché Bill Gates sostiene che dobbiamo abituarci alle pandemie in un mondo globalizzato e forse ci abitueremo, ma intanto sarebbe utile capire se voi al Ministero della Salute avete informazioni più dettagliate rispetto a quelle un po' confuse che vengono diffuse dagli organi di stampa su come questo virus si è diffuso, perché abbiamo letto che sarebbe stato effetto di pipistrelli o serpenti acquistati nei mercati, un media italiano, la TV diretta da Paolo Liguori, il sito diretto da Paolo Liguori ha citato invece sospetti su un virus addirittura elaborato nei laboratori di Wuhan in Cina e casualmente diffuso da un operatore di quello stesso laboratorio. Insomma, voi che allora, cosa sapete questo virus e come si è diffuso? Allora, andiamo su ciò che è più realistico. Sicuramente, dalle notizie che abbiamo, è un virus che è nato per una modifica del virus stesso e quindi un passaggio da animale a uomo. Non è la prima volta che succede, quindi sono d'accordo con Bill Gates che nel futuro ci saranno altri eventi del genere. D'altro canto i virus sono negli animali, possono modificarsi, trasmettersi agli uomini e poi l'uomo lo trasmette all'uomo. Ora, a dire il vero, se è passato dal pipistrello o dal serpente, sicuramente è nato in un mercato, sicuramente vi è diciamo non ancora forse la prova scientifica al 100%, ma tutto fa pensare che sia così, che sia nato all'interno diciamo un serbatoio animale, virus modificato trasmesso a un uomo e poi chiaramente l'uomo con contatto con gli altri uomini ovviamente l'ha trasmesso ad altri soggetti nelle vicinanze e poi da lì è stato lo spread dell'infezione. Non andrei a cercare a mio avviso, quindi lo dico anche su base scientifica, teorie fantasiose e complottistiche o di virus creati in laboratorio. La storia recente e meno recente è piena di episodi di virus che modificandosi attaccano l'uomo. Insomma, non è la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima. Allora, tra un attimo torniamo da lei sulle misure che sta prendendo l'Italia e tra un attimo andremo anche da Giuliano Noci a chiedergli un po' i rischi di impatto economico. Però io prima da Noci volevo sapere un'altra cosa. Ci sono molti ascoltatori che ci stanno scrivendo dicendo: ma ragazzi, non è una questione di allarmismo, è che sono le stesse autorità cinesi che stanno prendendo delle misure di emergenza. Però l'impressione, Noci, in realtà è che sia quasi una reazione questa cinese al cattivo comportamento che le autorità tennero all'epoca della SARS, sostanzialmente tenendo nascosto la diffusione del virus, e che quindi adesso, per dimostrare alla comunità internazionale di essere affidabili sotto questo aspetto, stiano prendendo le misure estremamente drastiche, no? È esattamente così, nel senso che chi conosce la Cina sa benissimo che questa reazione è una reazione fatta per dimostrare al mondo che non sono quelli del 2003, che hanno una capacità di gestione di questo tipo di fenomeni ben diversa. E mi nasce dire una cosa: in qualche modo la Cina potrebbe, visto che, come dice Bill Gates, la diffusione di queste pandemie potrebbe essere un fenomeno frequente, la Cina potrebbe in qualche misura definire una sorta di standard di gestione di queste pandemie che riprodurre in Europa potrebbe essere davvero molto difficile. Quindi sono molto d'accordo con lei, è una reazione quasi eccessiva, direi, perché la chiusura di stamattina di Xi'an, 118 linee di trasporto oggettivamente con 10 casi per un virus che è simile all'influenza, è eccessiva. Però guarda all'Organismo Mondiale della Sanità, guarda al mondo per far capire che la Cina c'è, gestisce questi fenomeni e non vuole essere causa di problemi ad altri paesi in giro per il mondo. Anche perché la Cina di oggi, del 2020, non è la Cina di quando dovete affrontare il focolaio della SARS. Oggi è una grandissima potenza che contende agli Stati Uniti la primazia. E guardando appunto all'aspetto dei contraccolpi che l'epidemia del virus potrà avere, anzi sicuramente avrà, sulle economie occidentali e su quella cinese, possiamo fotografare a suo avviso quale delle due economie, quella cinese o quella occidentale, avvertirà prima gli effetti negativi? Perché noi abbiamo intanto un primo contraccolpo sul turismo. Il presidente di Federalberghi in Italia, Bernabò Bocca, ha già messo le mani avanti dicendo ci aspettiamo un sacco di disdette, perché appunto i cinesi viaggeranno molto meno, e i cinesi rappresentano un'importantissima fetta del turismo che arriva in Occidente e segnatamente in Italia. Quindi possiamo fare un'analisi degli effetti sulle economie occidentali e su quella cinese, perché il listino cinese perderà ancora adesso che dal 3 febbraio ricominciano le contrattazioni che si sono fermate per il Capodanno. Guardi, io ritengo che gli effetti di questa pandemia saranno più di carattere economico che di natura biologico umana, e saranno superiori, ben superiori a quella che è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, e cerco di spiegarmi. Per quanto riguarda l'Italia, partiamo dall'Italia, il tema è piuttosto rilevante, perché come ben diceva lei, i cinesi sono il primo scontrino medio in Italia, sono di gran lunga i primi acquirenti del lusso in Italia, sono venuti in 3 milioni l'anno scorso ed era previsto un ulteriore incremento quest'anno, anche perché ricordo ai radioascoltatori che quest'anno è l'anno della cultura e del turismo Italia-Cina, che sarebbe stata e spero possa essere ancora un'occasione straordinaria per far conoscere ai cinesi non solo le classiche città d'arte, ma che conoscono tutti, ma anche altre città che vantano patrimoni straordinari. Quindi da un punto di vista turistico è un danno molto ingente, e secondo me il presidente di Federturismo fa bene già ad evidenziarlo, anche perché i viaggi organizzati sono stati in questo momento bloccati e comunque il governo cinese e le autorità locali hanno mandato messaggi in cui si dice tenete sempre ben presente l'amore per la patria, tradotto vuol dire evitate di esporre la Cina a problemi con altri paesi per un presunto rischio contagio. Secondo elemento, il lusso. Più del 50% della domanda di beni di lusso del mondo è fatta da cinesi. Quindi tutte le aziende italiane, e non solo, evidentemente il Vemash, come già stato stigmatizzato, ne avrà pesanti ripercussioni, ma veniamo alle aziende italiane, avranno dei pesanti contraccolpi, perché non solo non vengono in Italia, non vengono in Europa, ma ricordiamoci andranno sempre meno a Hong Kong, che è una delle basi privilegiate di acquisto di beni di lusso da parte dei cinesi. Quindi tutta l'industria del lusso è in qualche misura pesantissimamente toccata. Terzo elemento, per quanto riguarda l'Italia, ma in realtà riguarda anche paesi come la Germania, c'è tutto il tema dell'automazione industriale. Noi esportiamo molta automazione industriale in Cina, le fabbriche in questo momento sono chiuse fino al 9 febbraio, ma è un mandare avanti la palla. C'è da capire se questa chiusura dovesse protrarsi, evidentemente ordini e così via non verrebbero evasi. L'altro tema ancora più rilevante è il tema dell'incertezza. Cioè in un clima di incertezza non si fanno affari, non si fanno viaggi, non si parano operazioni di fusione, di joint venture. Certo. Molte imprese italiane, ad esempio, hanno proibito ai manager di andare in Cina dalla settimana scorsa fino a data da definirsi. Quindi ecco, diciamo che le ripercussioni ci saranno molto pesanti. E saranno pesanti. Allora, prima di tornare da Sileri per capire un po' come si sta muovendo l'Italia, come ci stiamo muovendo, e anche per sapere insomma la sorte di quella sessantina dei nostri concittadini che sono a Wuhan, qualche voce di ascoltatore, va. Con tutto il rispetto, ma io non capisco a volte come... Che cosa state dicendo? Cioè, mi state dicendo che per non discriminare, per evitare di passare di quelli che hanno la psicosi, dovrei andare lì a baciarmi e abbracciarmi tutti i cinesi che trovo, così ci vogliamo tutti bene? Ma dai, cioè, abbiate pazienza. Se fosse voi in quell'autogrill lì, cosa avreste fatto? Come si fa a dire che la situazione è sotto controllo? Cioè, è solo fortuna, tra virgolette, perché qui con trasporti, interrelazioni, e i mercati lo dimostrano, c'è un pericolo effettivo, e comunque tutto questo dimostra la fragilità del sistema e diciamo così anche la sfacciataggine della Cina e di quel paese a utilizzare carni vive senza troppi controlli, eccetera eccetera. Allora, non sappiamo ancora l'origine del virus, quindi poi questa storia delle carni vive sarà da vedere. Detto ciò, c'è una fragilità di sistema, Sileri, forse, sul tema delle pandemie, e ci interessa capire intanto come sta intervenendo l'Italia su questa nello specifico, cioè come ci stiamo muovendo. Ma io non mi trovo d'accordo sulla fragilità del sistema per le pandemie, soprattutto in questo caso. La Cina ha dimostrato ampiamente di saperla gestire. Vorrei diciamo dire una cosa importante: nel mondo ci sono 7,7 miliardi di abitanti, 1,5 di questi miliardi è in Cina. Al di là delle abitudini alimentari, dei mercati, dei controlli e quant'altro, è evidente che laddove c'è un maggior numero di persone, laddove magari nel caso degli alimenti, diciamo l'ascoltatore ha suggerito questa problematica, è più facile che possa scoppiare un'epidemia. È evidente che è più facile. Cosa sta facendo l'Italia? Allora, l'Italia si è attivata subito, appena l'OMS diciamo ha dato l'alert, era l'8 di gennaio, dal 9 gennaio il primo volo che proveniva da Wuhan, così per i tre voli settimanali, nelle settimane successive fino a che sono stati bloccati i voli dalla Cina, sono stati controllati. Ora attualmente tutti i voli provenienti dalla Cina su Malpensa e su Milano viene controllato ogni singolo passeggero, al quale un'equipe costituita da un medico, un infermiere o un tecnico, quindi almeno due professionisti, entrano dell'aereo dotati di dispositivi di protezione, misurano la temperatura a ogni singolo passeggero, se vi è febbre, quindi vi è il sospetto di una infezione, qualunque essa sia, viene quel paziente, sospetto paziente, viene incanalato in un percorso fino alla diagnosi. Quindi diciamo moltissimo è stato fatto. Siamo stati i primi in Europa a mettere gli scanner termici, siamo stati i primi ad innalzare il livello di guardia, quindi diciamo stiamo lavorando veramente, c'è una task force quotidiana che si riunisce, monitora e cambia le azioni a secondo diciamo delle informazioni che arrivano di giorno in giorno. Vice Ministro, possiamo dare un'informazione diciamo pratica a chi viaggia? Ho visto nel weekend in aeroporto molte persone che non l'avrebbero mai usata prima, non molte, alcune diciamo, indossare la mascherina e tenerla sia durante il percorso in aeroporto che poi sull'aereo. È una misura che può essere di aiuto? Potrei rispondere facilmente dicendo sicuramente non fa male, nel senso che probabilmente non è quel tipo di mascherina la misura migliore. Facciamo un esempio, vista che anche la mortalità è bassa, quindi assumiamo che sia un'influenza che si aggrava in alcuni casi con la polmonite. Cosa fareste con tosse, raffreddore, vie aeree chiuse da un virus? La prima cosa da fare è mettersi la mano con un fazzoletto davanti alla bocca e cercare di stare più lontano dagli altri, così star lontani da coloro che hanno dei sintomi respiratori. Importantissimo è lavarsi le mani di lavarsi le mani con sapone per almeno 20 secondi. In merito ai viaggi, beh, io francamente in questo momento andrei in Cina solo se davvero necessario, e riinvierei il viaggio magari a un momento in cui è più chiara la situazione. Queste sono secondo me le norme più importanti. Cosa invece deve fare un cittadino che è stato in Cina e che magari accusa dei sintomi? Vi ricordo che la terza settimana del 2020 per il virus influenzale vi è stato un numero di casi altissimo, quindi attenzione, i sintomi sono, potrebbero essere sovrapponibili a quelli dell'influenza. Allora, un cittadino italiano che è stato in Cina, la prima cosa che deve fare, se ha dei sintomi strani, febbre, tosse e quant'altro, beh, avvertire il medico di famiglia che saprà gestire la situazione, perché la nostra circolare e quant'altro è già a loro conoscenza, quindi sapranno gestire perfettamente la situazione. Chiamare il 118. Viceversa, un cittadino cinese che è arrivato in Italia, ovviamente non ha il medico di base, ovviamente non sa nemmeno cos'è il 118, no? Questo è evidente. Numero verde del ministero, numero 1500, lì personale qualificato H24 che parla cinese anche sarà in grado di gestire il problema e indirizzare questo potenziale paziente. Quindi anche Giuliano Noci lo sa, e per tutte le persone che frequentano la che arrivano dalla Cina in Italia, gli può riferire questo 1500. Sileri, però io ho un dubbio che mi resta a fronte di tutto il ragionamento sui controlli che ci ha fatto. Due cose, ci mette, da quel che sappiamo, da quel che abbiamo capito, a 15 giorni di incubazione, e la seconda cosa, se ce lo può confermare, da quel che sappiamo c'è anche una trasmissione asintomatica di questo virus, cioè, È evidente che, quindi, è probabile che ci sia una trasmissione asintomatica. Attenzione, non chiamiamola magari asintomatica, chiamiamola paucisintomatica, cioè come tutte le influenze, come tutte le infezioni virali che colpiscono le vie respiratorie, in questo caso la forma più grave è la polmonite, è evidente che ci saranno delle forme magari con così pochi sintomi o sintomi così trascurabili che è probabile che rappresentino forse anche la maggioranza. Quando si parla di 4.000 casi, sono quei 4.000 casi diagnosticati perché o stavano molto male o erano in contatto con quelli che stavano molto male, ma ci saranno sicuramente altri pazienti che non sono diventati pazienti perché il virus, diciamo, li ha colpiti in forma leggera, ma credo che questo è comune, no? a moltissimi dei virus che circolano. Ci metterei dentro, per non scatenare il panico, Sileri, il fatto che il sistema sanitario cinese suppongo che sia un po' peggio del nostro, tutto sommato, no? Il nostro servizio sanitario nazionale, e questo non lo dico io perché lo dicono ovviamente i numeri, è al momento il sistema sanitario più invidiato al mondo, che nessuno riesce a riprodurre, garantendo praticamente tutto a tutti, con differenze sicuramente fra il nord e il sud, e a volte anche nelle stesse regioni, che dovremo mitigare e azzerare, ma pensate che in Europa l'Inghilterra ha un sistema simile al nostro in notevole sofferenza. No, quello inglese, sono d'accordo con lei, non è minimamente comparabile col nostro. Senta, professor Noci, proprio mentre siamo in chiusura, secondo lei quando gli studenti italiani che studiano in Cina e che ora sono in Italia potranno rientrare? Perché molti si chiedono che cosa sarà del loro piano di studi, non è la cosa più importante al momento. Rapidissimo, Noci, che siamo rapidissimo. Io quello che le posso dire, quello che ha fatto il Politecnico, noi abbiamo mandato una circolare ai nostri studenti dicendo che non si preoccupino dei vincoli amministrativi di doppia laurea, se vogliono tornare, tornano in Italia. Per il momento non abbiamo molti casi, anzi, come dicevo prima, molti sono andati in vacanza. Sono andati in vacanza. Grazie a Giuliano Noci del Politecnico di Milano e anche prorettore del Polo Territoriale Cinese. Sileri. Grazie a Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. Maria, ci sentiamo domani alle 8.20. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrero in redazione, Margherita Inea, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Carmelo Lauricella in regia. Ci sentiamo domani alle 6.30. Ciao.